a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Bentrovati da Francesco Galante, nuovo appuntamento con A Regola d'Arte, la trasmissione che ogni settimana ci introduce nel mondo dell'UPA, dell'Unione Provinciale Artigiani. Oggi abbiamo al telefono con noi Franco Silvestrin, presidente del sistema di categoria autoriparatori di UPA. Bentrovato. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori, buongiorno. Allora, signor Franco, parliamo di quello che è accaduto qualche giorno fa. Voi siete stati a Modena in visita alla Pagani, che è una nota industria che produce supercar, delle macchine insomma particolari. Avete avuto la possibilità di girare per Modena, visitare la città e anche in questa industria, la Pagani. L'occasione è stata molto interessante perché, oltre alla visita, quest'anno siete stati ospiti della Confartigianato Modena Reggio Emilia, con la quale avete sviluppato un percorso significativo. Raccontiamo un po' com'è andata questa giornata. Beh, intanto cosa positiva è confrontarsi con le altre realtà dell'Italia, insomma, penso che sia una cosa importante per noi, per loro, e scambiarci le opinioni, perché giustamente ogni territorio ha le sue peculiarità, le sue particolarità. E questo insomma è il primo punto, insomma, da sottolineare che sia una cosa importante lo scambio di idee, di opinioni e di persone che lavorano lo stesso obiettivo. La seconda cosa è che abbiamo avuto il piacere di visitare un'entità storica come Modena, con le sue particolari, insomma, con la cattedrale, col palazzo, anche loro hanno una storia diversa da Padova, però insomma abbiamo avuto il piacere di avere un esperto del confartigianato di Modena che ci ha illustrato, insomma, alcuni, nel poco tempo che avevamo, alcuni punti particolari del centro storico. Sì. E poi siamo andati a visitare questa eccellenza dell'Italia, una parte italiana, una parte no, fatto la meccanica, non tutta viene fatta in Italia, però questa è un'eccellenza fatta, direi che più che una fabbrica, questo è un laboratorio di tecnologia, dove hanno più persone che operano sulla tecnologia, sullo studio, sull'innovazione e sulla corsa su strada, che sono, queste sono veramente opere d'arte, veramente come un quadro. Addirittura, quindi una visita alla Pagani merita in questo senso. Diciamo che ha 17 anni di storia, che a questo costruttore ha fatto fino adesso 350 esemplari, veramente 20 vetture all'anno, questo dice tutto sul lavoro che fa questa persona, sulla progettualità, sull'innovazione, sulle tecnologie e quello che fa su queste opere d'arte particolari e personalizzate ad ogni cliente che entra in questa boutique, diciamo, dell'automobile. è come andare ad ordinare un vestito da un sarto fatto su misura. Sì, questo calza proprio, veramente penso che prima di fare il posto guida prendono le misure completamente alla persona che ha il piacere di avere questa macchina in garage o in mostra, insomma. Questo è qualcosa di particolare che va di per strada, si vedono. Diciamo che i loro clienti per il 10% è italiano. Adesso, sì. Insomma, infatti avevano degli esemplari con la guida a destra per l'Inghilterra, per il Giappone, insomma, una cosa. Mm-hmm. Raramente una linea può permettersi questo cambiamento di produzione. Ecco, quindi c'è molta ricerca all'interno di questa azienda. Cominciando da tecnologie dove fanno il guscio, la cellula sopravvivente che è fibra di carbonio, che viene fatta in particolare, progettata proprio qua là da loro in fabbrica, dove hanno gli autoclavi che cuociono e assemblano proprio la cellula di vivente della vettura. Ho notato che oltre a voi, insomma, dell'UPA, c'erano anche i ragazzi del Newton, no? Che hanno partecipato al progetto Artigiani in Cattedra. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, proprio in un appuntamento di A Regola d'Arte. Avevamo raccontato di questo progetto dove proprio gli artigiani dell'UPA andavano a insegnare ai ragazzi come si realizzano determinate cose dell'artigianato. Sempre di più, secondo il mio punto di vista, è la collaborazione con noi che lavoriamo tutti i giorni e le scuole che devono capire che lavorare è un piacere, un onore, non è che sia proprio solo insegnare, che sia la qualità. un bravo artigiano, una persona che riesce con le mani a fare qualcosa di importante, è una persona che merita rispetto. I ragazzi, come sempre di più, devono capire che la manualità, imparare un mestiere come una volta, è fondamentale per la nostra crescita. Perché una volta noi, i nostri genitori ci mandavano proprio a imparare un mestiere, non a guadagnare. Prima dovevamo imparare cosa fare. È vero. Perché una volta che uno ha imparato qualcosa, riesce a divulgarlo e sicuramente l'evoluzione personale non ha fine, perché no, il lavoro artigiano non ha fine, l'abbiamo visto negli anni, gli artigiani si rinnovano costantemente nel loro fare. Certo, lei che è presidente del sistema di categoria autoriparatori, come sta cambiando il vostro lavoro? C'è ancora posto per un giovane? Posto per i ragazzi che vogliono mettersi in discussione, perché anche da noi, come in tutti i lavori, sta cambiando, cioè la realtà è diversa. Noi avevamo i 128, i 127, le fulviette, i Singa, sì. Adesso abbiamo l'elettronica, difatti fra poco non ci chiamiamo più autoriparatori, ma meccatronici. E quindi l'evoluzione dell'autovettura oggi è in continuo, vediamo quello dell'ibrido elettrico e biturbo, pensiamo solo che la Pagani, tornando a prima, è un motore 12 cilindri biturbo che eroga dai 700 ai 950 cavalli, quindi un'elettronica, una sofisticazione della meccanica che non ha fine, 7 marci, diciamo che è una vettura, perché dopo questa bisogna anche fermarla, quindi lo studio che viene fatto sui freni, su tutta la dinamicità, è qualcosa di importante. Certo. Quindi noi non possiamo pensare solo ad essere gli assemblatori di una vettura quando arrivi in officina a oggi, che è ben diverso di una volta. Adesso dobbiamo proprio capire la vettura quando arriva, che ha qualche problema, qualche difetto. Anche questa è assolutamente interessante. Quindi meccatronici sarete, si cambia nome in qualche modo. Il 4 gennaio 2018 tutta la categoria diventerà meccatronica. Proprio adesso siamo in un momento di transizione, 2013-2018, 5 anni, e da quella data non esisterà più l'auto meccanico e l'elettrauto, ma esisterà solo il meccatronico. Andremo a portare la macchina dal meccatronico, ci dobbiamo abituare anche a questa novità. Beh, grazie allora a Franco Silvestrini, presidente del sistema di categoria autoriparatori di UPA. Per noi un po' di musica e poi avremo con noi Federico Boin, presidente del sistema di categoria officine meccaniche di UPA. Grazie. Ringrazio lei, saluto i suoi ascoltatori. Grazie. Say they are so to me, I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them. I pray that I'm giving you all that matters. So one day you'll say to me, I love my life. I'm where I wanna be. A regola d'arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Seconda parte di A Regola d'Arte, bentrovati ancora da Francesco Galante. Come vi avevo detto, ritroviamo adesso al telefono Federico Boin, presidente del sistema di categoria Officine Meccaniche di UPA. Bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, intanto due parole, signor Federico, sul fatto che lei è entrato a far parte del direttivo nazionale della Federazione della Meccanica di Confartigianato. Sì. Ci spiega un po' in poche parole che cosa significa questo? Praticamente, allora, lo scorso luglio io sono diventato presidente della Federazione della Meccanica a livello regionale. Sì. E all'inizio di questo mese ci sono state poi le elezioni nazionali e abbiamo rinnovato l'incarico al vecchio presidente Paolo Rolandi, perché era una persona molto capace, mm-hmm, con la quale avevamo già incominciato a lavorare assieme, anche se comunque non ero presidente di federazione nel Veneto lo scorso anno, ma ero semplicemente presidente provinciale. Abbiamo incominciato a lavorare assieme su quello che era il rapporto con le fiere, visto che noi avevamo già l'esperienza della MEXPE di Parma, e con lui abbiamo instaurato un bel rapporto. Diciamo che per me sarà una bella esperienza, una nuova esperienza a livello nazionale, perché finalmente possiamo portare sui tavoli nazionali quelle che sono anche le esigenze, le esigenze del Veneto, e cominciare a diventare proattivi all'interno dei vari progetti che si svilupperanno a livello nazionale. Penso che sia una cosa molto importante. Eh beh, sicuramente, perché fare rete, lo sappiamo, è importante, no? Condividere le idee, e poi però se uno fa parte, insomma, del consiglio direttivo, sì, la cosa è ulteriormente efficace, diciamo così. Sì, assolutamente sì. Bene, allora complimenti per questo nuovo incarico. Grazie. Che saprà dare lustro al Veneto. E allora torniamo a parlare di questo appuntamento che avete vissuto a Modena. Oltre alla visita della città, grazie alla collaborazione con la Confartigianato di Modena e Reggio Emilia, e anche alla visita alla Pagani, che abbiamo capito è stata veramente una cosa emozionante. Una cosa emozionante, sì, anche per, penso, per i ragazzi che sono stati invitati, no? I ragazzi del Newton, che è una scuola. Sì. No, è stata una cosa emozionante per i ragazzi, perché comunque penso che il mondo dei motori per ragazzi delle superiori sia una cosa fantastica, ma anche per noi stessi imprenditori, perché comunque abbiamo officine meccaniche che fanno pezzi comunque anche nel settore dell'automotive. Vedere come si è elevata la qualità e come un imprenditore come Pagani, Orazio Pagani, ha investito, diciamo, sull'eccellenza, creando un'azienda artigiana che fa macchine di lusso, diciamo, per esclusivi amatori, è stata una cosa bellissima da vedere. Ha creato all'interno della propria azienda un ambiente fatto ad hoc per l'uomo, cioè ha creato addirittura una piazza all'interno del proprio stabilimento, sembra una piazza lo stabile, quindi veramente è stata una cosa bellissima. Si impara qualcosa e soprattutto torni a casa con uno spirito rinnovato. Assolutamente sì, infatti è uno stimolo sempre a far meglio, a elevare la qualità delle nostre aziende, a capire quanto è importante anche la formazione dei nostri stessi dipendenti all'interno delle nostre aziende, quindi è stata un'esperienza che consiglio a tutti quanti. Ecco, bello, anche questo serve a migliorarsi, proprio guardando le eccellenze che abbiamo, e proprio di eccellenze continuiamo a parlare, perché avete fatto anche un altro giretto. Sì, abbiamo fatto visita a un'acetaia sempre lì a Modena, infatti ringrazio la LAPAM, che è la Confartigianato di Modena e Reggio Emilia, che ci hanno ospitati, e abbiamo visitato appunto questa acetaia in cui si produce un aceto balsamico di eccellenza, fatto da un consorzio di produttori che hanno creato, tra virgolette, una rete di impresa che si chiama Eccellenze Modena, all'interno della quale, oltre all'aceto balsamico, hanno raggruppato vari prodotti del territorio. Questo è stato molto importante per noi, visto che si sente molto parlare di reti d'impresa. Ci ha fatto capire come l'essere insieme, condividere dei progetti, condividere anche le problematiche stesse di un mercato e cercare di elevare l'eccellenza delle nostre aziende sia importante per affrontare nuovi mercati e per avere stimolo di migliorarsi giorno per giorno. Infatti c'era proprio il presidente che ha spiegato anche come viene fatto questo aceto e si vedeva negli occhi di questa persona l'amore per il proprio lavoro, ed è stato anche questo molto emozionante. Sicuramente, quindi quando c'è la difficoltà, mettendosi insieme si possono generare nuove idee e trovare uno sviluppo che insomma ci permette di andare avanti e cambiare anche in qualche modo la tecnologia, l'esperienza delle nostre aziende per proporre un futuro. Questo sicuramente, infatti a me ha sempre fatto un po' ridere sentire parlare di brainstorming, però l'aggregarsi, il mettersi in rete è proprio importante, perché lo scambiarsi delle idee, lo scambiarsi informazioni, cominciare a condividere dei progetti, cominciare a condividere degli obiettivi assieme, tante aziende assieme, è importantissimo anche per la crescita della propria azienda. Non bisogna più guardare, come si fa spesso, guardare l'orbitello proprio, bisogna guardare un po' l'azienda a 360 gradi, condividere dei progetti con altri per crescere, perché sappiamo benissimo che le realtà artigiane sono tutte aziende molto piccole e se condividono dei progetti assieme, unendosi, possono sicuramente essere competitivi anche rispetto ad aziende molto più strutturate. Uno, perché l'artigianalità comunque è richiesta, le capacità dell'artigiano sono infinite e l'unirsi assieme, creando in tante aziende assieme una grossa realtà, significa riuscire a affrontare anche mercati nuovi come possono essere anche i mercati esteri. Quindi è stata un'esperienza che dal mio punto di vista ha aperto le menti dei nostri artigiani parecchio. Bene, quindi guardiamo al futuro. Grazie a questa altra segnalazione, a questo racconto di Federico Boin, presidente del sistema di categoria Officine Meccaniche di UPA. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Arrivederci. Terminiamo la nostra puntata di A Regola d'Arte con una segnalazione da parte dell'UPA per la tutela legale e contrattuale degli associati. La struttura dell'UPA, in collaborazione con più studi professionali specializzati negli ambiti delle rispettive competenze, fornisce agli associati consulenze inerenti alle materie del diritto civile, spaziando dal diritto delle locazioni a quello societario, dalla materia fallimentare alle tematiche di pertinenza notarile. È attivo un servizio di consulenza relativo al settore penale, con particolare riguardo alle problematiche attinenti alla figura dell'imprenditore nell'ambito della propria attività. Particolare attenzione viene rivolta al diritto del lavoro giuslavoristico. L'ufficio preposto fornisce alle aziende associate indicazioni utili alla gestione e definizione delle criticità legate ai rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente. Con tale servizio gli associati possono trovare risposte utili alle questioni giuridiche inerenti alla loro impresa e o la loro sfera privata. Per informazioni, ufficio legale UPA 049 8206 368. Sito internet www.upa.padova.it. Termina così questa puntata di A Regola d'Arte. Grazie a tutti da Francesco Galante, alla prossima settimana. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.